Nessun luogo è lontano. I cinque elementi. L'etere. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della serie speciale di Nessun luogo è lontano, i cinque elementi. So che molti di voi si saranno interrogati su quale potrebbe essere l'elemento, il tema di quest'ultima puntata del ciclo di Nessun luogo è lontano. Qualcuno di voi magari con un background, con degli studi filosofici, si sarà immaginato l'etere, perché sì, la filosofia ci ha consegnato questo, una parte della filosofia, come quinto elemento. Qualcun altro magari appoggiandosi a dei riferimenti un pochino più pop e cinematografici avrà pensato al film di Luc Besson, e quindi il quinto elemento, l'amore. No, ecco, noi vogliamo sparigliare le carte. C'è un quinto elemento, l'avete capito, Nessun luogo lontano ha preso le mosse da alcune interpretazioni filosofiche della realtà per rielaborarle. Ecco, noi dopo acqua, aria, terra, fuoco abbiamo individuato un quinto elemento che plasma la realtà, plasma anche la grande attualità internazionale e permette a alcuni attori di fare un sacco di soldi. E il quinto elemento è la droga. So già che adesso molti di voi staranno pensando che questa puntata tratterà del traffico di eroina, oppure di cocaina, di hashish, di marijuana, benché questi traffici di droghe che già conosciamo costituiscono forse uno dei business più ricchi al mondo, coinvolgono attori criminali transnazionali, le rotte le conoscete. Tutti i derivati dell'oppio arrivano soprattutto dall'Afghanistan e attraverso l'Asia e il Medio Oriente inondano l'Europa e gli Stati Uniti. Invece le rotte della cocaina sono quelle che dall'America Latina, dalla Colombia soprattutto, e col rinnovato ruolo dei clan, dei cartelli messicani, arrivano sia negli Stati Uniti che in Europa, a volte transitando per rotte inusitate, cioè quella dell'Africa occidentale per esempio. Pensate al ruolo di piccoli paesi, stati fragilissimi come la Guinea Conakry, la Guinea Bissau, grandissimi hub attraverso i quali poi i corrieri internazionali inondano l'Europa. Ma c'è un altro elemento, c'è un'altra droga molto più subdola, molto più nascosta, e questa droga in realtà è a tutti gli effetti un farmaco. Questa crisi, la crisi degli oppioidi, quella che vi raccontiamo in questa puntata di Nessun luogo è lontano, prende le mosse da una storia. Sono le 3 del mattino di sabato, 3 gennaio 2015. Una coppia, Laura e Jason Henke, si svegliano e trovano incredibilmente il figlio morto. Il figlio si chiama Bailey, è riverso sul divano, ha 18 anni. La storia inizia così. La storia inizia con un interno familiare in piena notte, tra lacrime e singulti, e una morte inspiegabile. Solo che a un certo punto qualcuno suona alla porta ed è un agente di polizia, seguito anche da un prete. Nelle ore seguenti si aggiungono dettagli a questa storia. I dettagli peraltro li viene a conoscere per prima la madre di Bailey. L'aveva beccato una volta a fumarsi uno spinello, ma non pensava che il figlio fosse diventato dipendente dal fentanyl. Grazie a un amico, il giovane Bailey, infatti, aveva fatto ricerche in rete, su internet, e si era procurato questa pericolosissima droga. La storia di Bailey finisce così. I dettagli di questa complessa e tragica storia emergono piano piano, grazie anche a rivelazioni di stampa. La madre una volta aveva beccato il figlio Bailey a fumarsi uno spinello, ma poi ha capito e ha scoperto che attraverso un amico il giovane diciottenne era riuscito a procurarsi su internet del fentanyl, un oppiaceo potentissimo, molto molto più potente dell'eroina. Ecco, quel corpo riverso in quella notte di gennaio aveva assunto dosi massicce di quel farmaco. Il New York Times Magazine pubblica una foto di Bailey Henke del 2013. Il ragazzo appare spensierato, indossa un paio di pantaloni sportivi, una t-shirt scura e una camicia bianca con le maniche rimboccate. Ecco, mancano 3 anni alla morte. Mancano 3 anni a un evento che avrà cambiato per sempre la vita della famiglia Henke. Perché di lì a poco, quella ricerca macabra su internet, quella suggestione, quel suggerimento che gli arriva da un amico perché non provi a cercare il fentanyl, risulterà tragico. Mike Buemi, un agente dell'agenzia antidroga degli Stati Uniti, a 2000 miglia di distanza sta indagando proprio su quel caso, e non solo. L'epidemia degli oppioidi sta dilagando in tutti gli Stati Uniti. Ma facciamo un passo indietro. La prima epidemia inizia alla fine degli anni 90, quando iniziano negli Stati Uniti a verificarsi casi di overdose da medicinali prescritti come antidolorifici, tra i quali l'oxycontin e il Vicodin. La seconda ondata inizia nel 2010. Si applicano restrizioni più severe sulla circolazione di farmaci della famiglia di oppioidi e decine di migliaia di persone che avevano sviluppato una dipendenza da oppioidi si rivolgono così all'eroina. Nel 2013, infine, si diffonde il fentanyl e le overdose da fentanyl aumentano vertiginosamente. Nel 2016, questo pericoloso farmaco sorpassa l'eroina come causa di morte da overdose. In quell'anno, 19.720 persone muoiono per overdose da oppioidi. Nel 2017, le overdosi si impennano a quota 28.869. Ma che cos'è il fentanyl? Beh, è un antidolorifico derivato dall'oppio che viene normalmente usato per sedare i pazienti malati di cancro o sottoposti a importanti interventi chirurgici. Il fentanyl può essere fino a 100 volte più potente della morfina e fino a 50 volte più potente dell'eroina. Produce sensazioni simili all'eroina e si può assumere in pillola, in spray e attraverso cerotti. Il fentanyl di contrabbando, e questo è il lato più oscuro, venduto per strada, viene chiamato anche Apache, China Girl, China White, He-Man, Great Bear, Goodfellas, Dance Fever. Tutti nomi evocativi che tentano di nascondere la micidiale potenza di questo farmaco. Può essere infatti mescolato con altre droghe e funge da moltiplicatore dell'eroina stessa. E poi c'è l'oxycontin, il primo oppioide che si è diffuso. Nel 2011 è stato la prima causa da morte da overdose negli Stati Uniti. Le morti da oppioidi complessivamente negli ultimi anni sono state più di 67.000. Ammontano quindi a più della somma dei militari americani morti in Vietnam, Afghanistan e Iraq. Ma chi è o chi sono i responsabili di questa crisi da oppioidi, di questa gigantesca e devastante epidemia che, attenzione, per adesso è diffusa negli Stati Uniti, ma potrebbe propagarsi in tutto il mondo? Seguiteci, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo raccontarvi la storia della famiglia Sackler, una potente famiglia miliardari che hanno fondato un'industria farmaceutica. C'è una persona, un giornalista, un freelance, scrive per il New Yorker Esquire, che da anni si è messo sulle tracce di questa famiglia per spiegare un talentuoso e benefico genio criminale, quello che ha permesso a quella famiglia di far svoltare l'industria farmaceutica applicando una logica di marketing super aggressiva e andando a inquinare definitivamente il mercato. Sentite dalla voce di Christopher Glazek quanto siano stati innovativi e pur criminali i Sackler. Sacklers are really some of the most important innovators in medical and pharmaceutical marketing in history. I Sackler sono davvero tra i più importanti innovatori della storia nel campo del marketing di prodotti medici e farmaceutici. Arthur Sackler, il patriarca della famiglia, il più anziano dei tre fratelli che fondarono la Purdue, fu il primo a introdurre negli Stati Uniti la pubblicità nel settore dei medicinali. La sua principale intuizione fu che nelle società farmaceutiche si nascondeva un immenso potenziale da valorizzare attraverso il marketing, rivolto direttamente ai medici. Tra la fine del XIX secolo e il XX secolo, i farmaci venivano venduti direttamente porta a porta, ma Arthur Sackler capì che era possibile pubblicare pubblicità sulle riviste mediche, anche su riviste molto prestigiose, e raggiungere così un immenso pubblico di dottori. I suoi inserti pubblicitari erano molto vistosi, brillanti, e davano l'impressione che i medicinali Sackler fossero molto efficaci. I primi enormi guadagni della famiglia arrivarono negli anni 60, quando Arthur Sackler realizza la campagna promozionale per il Valium. Il Valium, in realtà, esisteva già sul mercato e si chiamava Librium. Ma la cruciale intuizione di Arthur è che mentre il Librium si rivolgeva a uno spettro molto ridotto di pazienti, il Valium, opportunamente rinominato, viene presentato come un farmaco contro tutti i tipi di ansie. Ed è un successo enorme. Il Valium diventa il primo farmaco a vendere per un totale di 190 milioni di dollari. Diventa il farmaco più venduto negli Stati Uniti. E tutto perché Arthur si inventa una nuova patologia che battezza tensione psichica. Secondo lui, questa potrebbe essere la fonte di quasi tutti i sintomi descritti da un paziente. Che tu abbia mal di testa, insonnia, problemi sessuali o mal di stomaco, la causa potrebbe essere la tensione psichica e il Valium potrebbe essere la cura. Così, negli Stati Uniti e anche in altri paesi, moltissime persone hanno iniziato a prendere il Valium con molta disinvoltura e hanno sviluppato una dipendenza. Quello che succede negli anni 90 è che i fratelli più giovani di Arthur, Raymond e Mortimer, iniziano ad applicare la stessa tecnica con l'OxyContin. E anche l'OxyContin è il rebranding di un farmaco già diffuso. E questo farmaco è basato sulla morfina. Insomma, ossicodone, eroina, morfina, sono tutti basati sullo stesso principio. Questo farmaco si chiamava MS-Contin e veniva prescritto ai pazienti ammalati di cancro. Quindi si trattava di qualcosa che i medici generici non avrebbero mai adottato, perché avrebbe fatto sentire il paziente sul punto di morte. Allora i fratelli Sackler si chiedono: e se usassimo la stessa sostanza, ma cambiandole nome la facessimo diventare una cura per qualsiasi tipo di dolore quotidiano? Ed ecco come sono riusciti a convincere un numero enorme di medici generici, soprattutto nelle aree rurali, ad adottare l'OxyContin per sintomi lievi. Quei dottori non avrebbero mai prescritto della morfina per un'emicrania, ma non avevano problemi a prescrivere l'OxyContin. La società dei Sackler è riuscita a persuaderli che si trattava di un farmaco più blando e che i pazienti non avrebbero sviluppato dipendenza. Ovviamente non era vero, e infatti la Purdue è stata giudicata colpevole di aver diffuso queste false informazioni. Imprenditori spregiudicati, forse criminali. La loro azienda, la Purdue, è stata giudicata colpevole per aver diffuso le false informazioni. Lo avete sentito dalla viva voce di Christopher Glazek. Ma quanto erano consapevoli di quello che stavano provocando? Quanto erano consapevoli non soltanto di provocare la morte di singoli individui, pur tantissimi, ma addirittura di plasmare l'intera società statunitense? Sentite ancora il giornalista investigativo. You know, clearly we've known for centuries that opioids are highly addictive, and you know there's no class of opioid. Sappiamo da secoli che gli oppioidi provocano una forte dipendenza in tutte le loro forme, e sicuramente la Purdue aveva propri a disposizione degli studi che dimostravano un certo abuso nella prescrizione del farmaco, ma mostrava studi scelti intenzionalmente, perché basati su un numero ristretto di pazienti, secondo i quali i casi di sviluppo di una dipendenza non erano così rilevanti. E poi spediva dottori in giro per il paese, includendoli in eventi pubblici nei quali questi medici sostenevano che la dipendenza era registrata in meno dell'1% dei casi. Dopodiché sono riusciti a introdurre il concetto di pseudodipendenza, sostenendo che in molti casi, anche se si registravano i sintomi, non si trattava di dipendenza in senso stretto. Insomma, hanno fatto di tutto per minimizzare i rischi di questi medicinali. Ma c'è un elemento molto importante che i Sackler e i dirigenti di Purdue avrebbero dovuto conoscere, ossia che l'MS-Contin, la versione dell'OxyContin immessa sul mercato negli anni 80, prima del cambio di nome degli anni 90, era molto considerata dagli spacciatori e veniva spacciata per strada a prezzi molto alti. Su questo punto, però, riuscirono a sostenere una tesi della quale convinsero anche la Food and Drug Administration, ossia che siccome gli effetti dell'OxyContin si manifestano a diverse ore dall'assunzione, un vero drogato non lo avrebbe mai acquistato, perché preferisce l'effetto istantaneo. Ma ovviamente ci sono molti metodi diversi per aggirare questo problema. Le pillole di OxyContin si possono sbriciolare e sniffare, mescolare con altre sostanze, eccetera. E tutto questo si sapeva fin dagli anni Ottanta, da quando l'OxyContin si chiamava ancora MS-Contin. Nello spiegarvi il quinto elemento in questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, che è la droga, sì, ma è anche un farmaco, un quinto elemento quindi che forse non ci si aspetta. E per tracciare questo complesso mosaico bisogna ascoltare un'altra voce, un altro punto di vista, un'altra angolatura. Ce l'offre Ben Westhoff, giornalista freelance, scrive fra gli altri per The Atlantic, che è autore di un libro, Fentanyl Incorporated, che spiega tutte le dinamiche più nascoste del traffico di fentanyl. Durante le ricerche che ha compiuto per scrivere questo libro, Westhoff ha incontrato diversi consumatori. Abbiamo chiesto al giornalista di spiegarci meglio la pericolosità di queste sostanze. Sono peggio di eroina e cocaina messe insieme. Ascoltate la voce di Ben Westhoff. Fentanyl is similar to synthetic heroin. Il fentanyl è qualcosa di simile a un'eroina sintetica. Ma laddove l'eroina proviene dai fiori di papavero, il fentanyl viene prodotto in laboratorio e quindi è molto più semplice e più economico da produrre. Inoltre è molto più potente. Si tratta di un oppiaceo come l'eroina, ma è circa 50 volte più forte. Tuttavia, molte delle persone che usano il fentanyl non sono neanche consapevoli di farlo, perché dato che è così potente e così economico, il fentanyl viene tagliato insieme a droghe come eroina e cocaina. A certi gradi di purezza, l'equivalente di 2 chicchi di riso di fentanyl può condurre alla morte. Quindi, quando viene tagliato con altre droghe, anche in piccole quantità, può uccidere gente che non sapeva neanche di averlo assunto. Nell'illuminante libro Fentanyl Incorporated di Westhoff, il giornalista racconta di essere risalito a un produttore, pensate, cinese di fentanyl, ed essere riuscito addirittura a visitare i laboratori. Ecco, proviamo a entrare in quei laboratori. Lo facciamo in punta di piedi. Abbiamo paura di essere smascherati, ma abbiamo una guida d'eccezione. Ben Westhoff, giornalista investigativo di razza, e ci affidiamo a lui. Il fentanyl sta uccidendo più cittadini americani di ogni altra droga nella storia. Però nessun giornalista finora era riuscito a entrare in un laboratorio dove viene prodotto. La maggior parte del fentanyl viene prodotta in Cina. E così volevo provare ad accedere a uno dei laboratori e raccontare come sono fatti. Così mi sono finto uno spacciatore interessato ad acquistare grosse quantità e ho chiesto ad alcuni contatti che avevo sviluppato nell'arco di mesi e mesi se fosse possibile visitare una delle ditte produttrici. Alla fine hanno detto di sì. Così sono andato in Cina e sono entrato in alcuni di questi laboratori, sempre con la mia identità fittizia. Uno di questi era nei pressi di Shanghai. Mi aspettavo di trovare un ambiente minaccioso, magari in un quartiere malfamato. Invece non ho visto niente di tutto questo. Il laboratorio sorgeva in un bel quartiere residenziale ed era attrezzato in maniera molto professionale. La questione è che questo tipo di produzione in Cina era perfettamente legale. Molte società che producono droghe estremamente pericolose operano rispettando completamente le norme cinesi. La produzione, il commercio e il traffico di droghe, ma anche di farmaci come il fentanyl, si devono affidare alle vulnerabilità del mercato. A volte la produzione di una certa sostanza può essere illegale in un luogo, ma legale in un'altra. Sta lì l'abilità dei grandi trafficanti: andare a studiare le normative, le legislazioni e sfruttare ogni piccola vulnerabilità. Ebbene, in Cina, le autorità americane avevano emesso un mandato di cattura nei confronti proprio di un signore della droga cinese, Fu Jingzheng. Ma, come ricordava lo stesso Westhoff nel suo libro, all'epoca la produzione di fentanyl in Cina era assolutamente legale. Che cosa dovrebbe fare allora l'amministrazione cinese per fermare l'epidemia di oppioidi? Sentite ancora Ben Westhoff. China and the US have a difficult relationship. Il rapporto tra Cina e Stati Uniti è complicato. Da un lato, la Cina non vuole che gli Stati Uniti le dicano cosa deve fare. Ma dall'altro, ovviamente, Pechino non ha nessuna intenzione di essere percepita come il nuovo produttore di droga di livello globale. Ora, va detto che la Cina ha iniziato a fare alcune mosse per contrastare la produzione e la distribuzione di oppioidi. La produzione di fentanyl è stata vietata, quindi da qualche mese è diventata effettivamente illegale. Allo stesso tempo, sembra che ci siano abbastanza uomini e mezzi dedicati ad applicare queste norme e a controllare questi stabilimenti. Quindi molte delle società che producono fentanyl e altri oppioidi non sono affatto preoccupate per un eventuale intervento del governo cinese. Possono esportare i prodotti ovunque senza grossi timori di venire arrestati. Adesso facciamo una piccola pausa, ci fermiamo qui, ma poi devo raccontarvi un altro attore fondamentale. Quello sì, lo conoscete bene. Anche lui è entrato nel mercato del fentanyl. Anche quest'attore ha una lunga conoscenza del mercato della droga. Volete sapere chi è? Restate con noi. Prima di cedere la linea alle borse per sapere come stanno andando borse e mercati, appunto, insomma, l'informazione finanziaria, vi ricordo che state ascoltando Il meglio di Nessun luogo è lontano. Abbiamo recuperato le puntate, secondo noi, più significative, in particolare la serie dei 5 elementi, e ve le stiamo riproponendo. Naturalmente la squadra di Nessun luogo è già al lavoro, ve lo garantisco. È vero che tra un brindisi e l'altro ci prendiamo un momento di pausa, ma siamo pronti per ritornare il 6 gennaio. Saremo rigorosamente in diretta per raccontarvi il 2020, l'anno che verrà, con le grandi tendenze, con il braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, con Mosca che allunga le sue mani in tanti tanti quadranti, con il rischio escalation in tanti settori, con quelle proteste in tanti paesi del mondo, e vedremo se otterranno un risultato, una risposta democratica da parte dei vari regimi. Detto ciò, come premesso, andiamo a sentire la borsa e poi la seconda parte del meglio di Nessun luogo lontano. Un luogo, una storia, una radio a colori. Da Pieve Santo Stefano, la città dei diari, ai sentieri delle Langhe di Beppe Fenoglio, al viaggio di Alan Lomax nel Salento, ai chilometri in battello sul fiume Po, alla memoria del Golfo dei Poeti, al blu del mare dell'isola greca di Castellorizzo, fino ai set cinematografici. Un luogo, una storia, di Daniele Biacchessi. Ogni venerdì una nuova puntata in esclusiva su Radio24.it. Racconterò le piccole storie che attraversano la grande storia, i luoghi e le persone. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Ultima ora, inventato il telefono per cani. Ma no, basta fake news! Monge non racconta storie! Le nostre crocchette sono 100% made in Italy e la carne è sempre il primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, la quinta puntata speciale di Nessun luogo è lontano. Oggi vi racconta appunto il quinto elemento. Un tipo particolare di droga, il fentanyl. Nasce come farmaco, viene dato ai malati terminali di cancro, viene dato a chi ha esiti da operazioni chirurgiche particolarmente dolorose. Poi però, soprattutto negli Stati Uniti, viene commerciato anche illegalmente, si trova su internet, provoca un'epidemia che arriva a fare 67.000 morti. Più di tutti i militari statunitensi caduti in Vietnam, Iraq e Afghanistan. Una strage a tutti gli effetti, ma il mercato è ricco e attira gli appetiti di tanti attori. Fra questi non potevano mancare i cartelli messicani della droga. In tante puntate di Nessun luogo è lontano vi abbiamo raccontato lo strapotere di Sinaloa, le vicende di Guzman e il Chapo, le vicende di suo figlio Ovidio. Ricordate, era scampato a un arresto a Culiacán, una scena da guerra a tutti gli effetti nella capitale dello stato messicano. Ecco, i cartelli messicani, così attenti al soldo, così attenti al profitto, non potevano che odorare il business che si cela dietro il fentanyl. Ma come si stanno muovendo questi cartelli? Ci affidiamo ancora una volta alla conoscenza, al racconto e alla voce di Ben Westhoff. Scrive fra gli altri per The Atlantic, ma soprattutto ha scritto il libro Fentanyl Incorporated, una delle più lucrose e benefiche industrie attualmente esistenti sulla faccia della terra. Il Messico produce e distribuisce la maggior parte della cocaina, dell'eroina e delle metanfetamine spacciate negli Stati Uniti. Ma adesso i cartelli messicani stanno diversificando anche sul fentanyl il più velocemente possibile, perché il fentanyl è ancora più redditizio. Non hanno i componenti chimici adatti a produrlo. Non hanno l'industria adatta a produrlo su larga scala, almeno per ora. Quindi importano dalla Cina, che li rifornisce di ingredienti o di prodotto finito, che poi impacchettano e distribuiscono verso gli Stati Uniti. Musica. Funziona così: quando il business è appetibile, quando gli attori hanno una conoscenza, i cartelli messicani già trafficano in cocaina, sono abili, sono i signori delle frontiere, fanno passare tonnellate e tonnellate di merce, la fanno arrivare negli Stati Uniti, la fanno arrivare in Europa. E perché allora a un certo punto non cambiare la merce, tanto le frontiere le controlli lo stesso, e buttarsi sul fentanyl? Il mercato vale tantissimo, le stime ancora sono troppo giovani e recenti, sicuramente si parla di milioni e milioni di dollari, ma ancora è inquantificabile. Per cui questo mercato desta l'attenzione di tanti, non soltanto dei poveri consumatori, dei narcotrafficanti, ma anche delle autorità investigative. Però c'è un ma, e quel ma è dettato dal grande buco nero del dark web. Ebbene, lì è molto facile trovare farmacie illegali, farmacie che sembrano farmacie vere a tutti gli effetti ma sono illegali, e piccoli venditori, piccoli dealer che per poche centinaia di dollari sono disposti a mandarti a casa con piccoli pacchetti il fentanyl, l'oxycontin e altri oppioidi. Insomma, un mercato gigantesco, e quando si parla di dark web è sempre più difficile monitorarlo. Adesso però dobbiamo fare un passo in avanti nella nostra storia. Vi abbiamo raccontato le vicende giudiziarie della casa farmaceutica Purdue, quella della famiglia Sackler, quegli imprenditori senza scrupoli, per usare un eufemismo, che sono stati la causa dell'epidemia degli oppioidi negli Stati Uniti, quella da 67.000 morti. Ecco, forse quel case history della Purdue ci può insegnare qualcosa. Ci può insegnare quali sono le armi che l'autorità giudiziaria e di polizia può affilare e mettere in campo per combattere questo nuovo, terribile nemico. Che cosa sta succedendo con le varie cause legali contro la Purdue? Ascoltiamo ancora il racconto di Christopher Glazek. È un giornalista freelance, scrive per il New Yorker e per Esquire. È stato lui che con la sua lunga inchiesta, redatta e pubblicata su Esquire, ha smascherato il ruolo della famiglia Sackler. Sentiamo l'aggiornamento sulle vicende giudiziarie della Purdue Pharma. So, you know, Purdue Pharma has been the subject of lawsuits from states, cities, counties. Purdue Pharma è stata oggetto di varie querele da parte di molte amministrazioni cittadine, statali, di contea, azioni collettive di consumatori, eccetera. E tutto questo va avanti ormai da anni, tanto che le querele sono diventate centinaia e centinaia. Ma negli ultimi due anni è successo qualcosa di nuovo. E questo è un risultato dell'attenzione rivolta dai media alla questione, attraverso il mio pezzo e molti altri articoli. Per la prima volta i Sackler sono stati nominati direttamente nelle querele. Questa è una distinzione importante, perché finora era sempre stata la società a essere querelata. Ma adesso stiamo parlando individualmente dei Sackler, che vengono chiamati in causa con l'accusa di essere stati a conoscenza delle pratiche scorrette adottate dalla compagnia e dal non aver fatto nulla per impedirle. Quindi, negli ultimi anni di procedimenti penali, c'è una costante. Ogni volta che i Sackler vengono chiamati individualmente, cercano di patteggiare il più velocemente possibile. Non vogliono che i singoli membri della famiglia corrano qualche rischio. E negli ultimi mesi si sta discutendo molto più del patrimonio personale della famiglia che del capitale della società. Perché i Sackler hanno preso così tanto dal capitale della società, si parla di 40 miliardi di dollari, che Purdue Pharma alla fine ha dichiarato bancarotta. D'altronde, l'OxyContin non vendeva più così tanto. A volte, quando sei il proprietario di una società che rischia di affondare, cerchi tutti i modi di sottrarre fondi dal capitale, in modo che in caso di fallimento magari hai nascosto il denaro offshore. Insomma, gli ultimi sviluppi riguardano questa battaglia legale per capire se l'intero patrimonio della famiglia Sackler può essere confiscato, mentre i Sackler offrono termini di patteggiamento molto alti. Attenzione però, anche se si sente parlare di patteggiamenti da 11 o 12 miliardi di dollari, si tratta di cifre fuorvianti. La maggior parte di questi miliardi che la famiglia Sackler offre per chiudere la questione non sono soldi veri. Si tratta di una specie di impegno sulla vendita futura di farmaci. Saranno versati al governo come risarcimento. Inoltre, parte dei farmaci di questo patteggiamento devono ancora essere immessi sul mercato, quindi non sappiamo affatto se venderanno oppure no. Anche la cifra di 3 miliardi di dollari della quale si parla in merito al patrimonio personale è poca roba rispetto ai guadagni che un capitale come il loro può garantire. Si parla di 2 anni di introiti. In definitiva, anche se dai titoli dei giornali sembra un'offerta di patteggiamento molto generosa, Nel concreto, non potrebbe essere affatto un problema per i Sackler. In questo racconto della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, ma anche del pericolo rivolto verso l'Europa, abbiamo parlato del fentanyl. Il fentanyl è stato in qualche modo la testa d'ariete per aprire questo benefico mercato. Poi è spuntato un altro farmaco, si chiama Oxycontin. Ma in che misura la successiva diffusione degli oppioidi è legata proprio a questo secondo farmaco? Avete sentito, l'ho detto all'inizio di questa trasmissione, sono state tre le grandi ondate, le tre grandi epidemie negli Stati Uniti. Ascoltate ancora il racconto di Christopher Glazek. I think the evidence is very strong that the Sacklers are very substantially responsible for the prescription drug epidemic in the United States. Penso che ci siano delle prove molto evidenti sul fatto che l'operato dei Sackler li abbia resi notevolmente responsabili della diffusione degli oppioidi negli Stati Uniti. La domanda dovrebbe essere: la crisi degli oppioidi sarebbe avvenuta lo stesso se i Sackler non fossero mai entrati nel business? Ovviamente è impossibile affermarlo con sicurezza, ma la mia opinione personale è che la risposta è sì. Tutto questo non sarebbe successo. Quello che i Sackler continuano a ripetere è che l'Oxycontin alla fine non ha mai rappresentato più del 6% del mercato degli oppioidi, ma anche questa rappresentazione dei fatti è fuorviante, perché alla sua comparsa l'Oxycontin costituiva invece la stragrande maggioranza di un mercato che non era mai esistito in questi termini, finché i Sackler non l'hanno inventato. Ed è solo dopo che Purdue Pharma ha inaugurato la pratica di prescrivere potenti oppioidi per sintomi leggeri che altre compagnie farmaceutiche ancora più grandi hanno seguito l'esempio. C'è una grande differenza tra grandi società come Pfizer, Johnson & Johnson, eccetera, che sono sempre sotto i riflettori delle agenzie federali e degli azionisti, e la Purdue Pharma, ossia una società detenuta da un pugno di soci, tutti appartenenti alla stessa famiglia, che controlla di fatto un solo brevetto importante, l'Oxycontin. Insomma, è una domanda molto intricata da porsi. L'epidemia degli oppioidi sarebbe avvenuta senza la creatività e la spregiudicatezza dei Sackler? Oggi, ultima puntata della serie, raccontiamo il quinto elemento. È un po' droga, è un po' farmaco. L'epidemia degli oppioidi, il fentanyl su tutti, sta riplasmando, ha riplasmato parte della società americana. Il rischio è che approdi in Europa e in altri continenti. Di sicuro attira gli appetiti di tante organizzazioni criminali. Vi abbiamo raccontato di come i narcos messicani, i grossi cartelli come quello di Sinaloa e los Zetas, abbiano odorato i guadagni che si possono fare. Ma c'è qualcun altro, c'è un altro attore. Anche quest'attore ha aspirazioni transnazionali. Anche quest'attore è una multinazionale benefica. Quest'attore si chiama 'Ndrangheta e ce la racconta meglio Antonio Italia. Ha appena pubblicato un libro, si chiama Statale 106 per Minimum Fax, che racconta proprio l'internazionalizzazione della mafia calabrese. Antonio Italia, in una delle tue missioni per scrivere questo libro sei finito in Canada. Che cosa hai scoperto? Sì, che intanto che i dati sulla diffusione di oppioidi anche in Canada sono allarmanti. Dagli Stati Uniti questa epidemia si è spostata anche in Canada. Secondo le statistiche della Public Health Agency of Canada, tra il gennaio 2016 e il dicembre 2018 i canadesi morti per overdose di oppioidi sono 11.577, di cui oltre 4.460 solo nel 2018. E sono andato in Canada perché, appunto, come raccontavi, stavo cercando di seguire alcune piste relative alla 'Ndrangheta, che hanno fatto del Canada uno degli hub principali per la criminalità organizzata calabrese. E però ho scoperto anche, ho toccato con mano questa diffusione da fentanyl. Una mattina di marzo, del marzo scorso, ero a Toronto, all'incrocio fra queste due vie che si chiamano Sherbourne Street e Dundas Street, e ho visto questa scena. Era mattina presto, un furgone è passato ad alta velocità, ha superato il semaforo con il rosso, il guidatore ha lanciato trovato un cartone e subito dai dintorni di Chevron Street, che non è una via molto raccomandabile, sono emersi delle persone con una dipendenza molto forte da fentanyl che sono andate a cercare, a rovistare all'interno del, del cartone che era stato lanciato dal furgone. Era un inseguimento, subito dietro si sono materializzate tre auto della polizia e effettivamente quando sono andato a chiedere sembrava che il guidatore del furgone si fosse disfatto del carico di fentanyl che portava con sé. Per essere, per evitare di essere beccato in flagranza, evidentemente. E poi, evidentemente, questi consumatori abituali conoscevano in qualche modo il contenuto del cartone. Insomma, una storia complessa, complicata, che dimostra che il Canada, come dirà, ha un suo lato oscuro che tu in parte hai indagato. Raccontaci però come l'andrangheta sta odorando e sta meditando di entrare nel mercato degli oppioidi. Dicevamo, cartelli messicani hanno certificato la bontà, sono ironico evidentemente, di questo business. Cosa fa la mafia calabrese? Allora, alcune intercettazioni che mi sono state raccontate da due detective della Royal Canadian Mounted Police, sono le famose giubbe rosse, di fatto è l'FBI canadese, mi raccontavano che sostanzialmente molte famiglie calabresi, o calabro-canadesi sarebbe meglio dire, non vogliono avere nulla a che fare con il fentanyl perché c'è un'attenzione troppo forte da parte della polizia. E quindi gran parte del mercato in realtà si concentra su Vancouver, o perlomeno arriva a Vancouver, che è una città con una fortissima immigrazione cinese, e quindi sono carichi che arrivano dalla Cina. Tuttavia, muovendomi un pochino in Canada tra Toronto, Montreal e poi Hamilton, che è una cittadina al confine tra cittadina da 500.000 abitanti in realtà, al confine tra Canada e Stati Uniti, li ho intervistato, e lo sentiamo adesso, il detective inspector Peter Tom, che mi ha raccontato che le due famiglie principali della criminalità organizzata calabrese ad Hamilton, che sono i Luppino e i Musitano, hanno alcuni contatti con il fentanyl. Quindi c'è stato anche un interessamento e un, non proprio un cambiamento, l'affare principale rimane la cocaina, ma se c'è da fare denaro anche col fentanyl, loro sono lì. E questo è quello che ha raccontato il detective inspector Peter Tom della polizia di Hamilton, Ontario. Questa è una delle truffe sulle quali abbiamo indagato, che coinvolgeva una delle persone associate a Iavarone, quindi alla cosca dei Musitano. Questa persona aveva una farmacia e da quella farmacia uscivano prescrizioni che con ogni probabilità erano false. In pratica addebitavano al governo il costo di droghe, oppioidi, che poi spacciavano in strada. Purtroppo questo sistema si è diffuso e il governo fornisce molto denaro a quelli che si rivelano in realtà farmacisti collusi con la criminalità organizzata. È come una licenza a stampare denaro e, francamente, è qualcosa di ridicolo. In Canada sarebbero necessari maggiori controlli del governo su farmacie e medici. Ci sono già delle regole, è vero, ma con questo sistema questi gruppi della criminalità organizzata riescono comunque a fare qualche milione di dollari all'anno. Questa era una delle voci che ha raccolto Antonio Taglia, che io ringrazio. Ogni tanto, lo sapete, lui da autore zompa di là dal vetro, viene qua in studio e ci racconta parte delle sue inchieste. Grazie mille Antonio Taglia, buona giornata, buon lavoro. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. E a questo punto è venuto il momento di tirare un po' le somme del quinto elemento che vi abbiamo raccontato. Abbiamo avuto una crisi di oppioidi che ha portato a decine di migliaia di morti, c'è un potenziale rischio per l'Europa e anche per altri continenti. Abbiamo capito che è un mercato molto ricco, molto appetibile, da ciò dipende l'attenzione di tanti attori criminali, i cartelli messicani per esempio, ma anche l'andrangheta. Abbiamo anche capito un'altra cosa però, che c'è un'attenzione mediatica crescente, e anche il senso di questa puntata di Nessun Luogo, un'attenzione investigativa crescente, per cui alcune delle famiglie canadesi che ci raccontava Antonio Taglia stanno un po' più sul chi va là. Un altro aspetto è quello della produzione. Per produrre il fentanyl e gli altri derivati dell'oppioidi ci vogliono laboratori. Non dovete immaginare dei laboratori in vecchi scantinati, magari pieni di muffa. Sono laboratori nuovi, moderni, molto ben attrezzati. Molto spesso sono in Cina o magari in India. Ecco, ci sono più controlli in Cina, ma probabilmente non sono sufficienti. Quindi per il momento stiamo assistendo a una massiccia produzione che arriva dall'estremo oriente e va a inondare sia le Americhe che potenzialmente solamente l'Europa. Ma se vi fossero maggiori controlli in Estremo Oriente, questo costringerebbe i produttori a riallocare proprio le produzioni stesse. Insomma, come capite, è un mercato in continua evoluzione, un mercato ricco, un mercato benefico, insomma, a tutti gli effetti, un gigantesco fattore che sta riplasmando la grande attualità internazionale. Era appunto il Quinto Elemento. In questo meglio di Nessun Luogo Lontano abbiamo recuperato quella che era una provocazione, se volete. Nella serie I Cinque Elementi abbiamo enumerato acqua, aria, terra, fuoco, rifacendosi alla filosofia presocratica, e poi introducendo quello che per alcuni il quinto elemento dovrebbe essere l'amore. Beh, noi abbiamo sparigliato le carte. Il quinto elemento che ci permette di leggere la grande attualità internazionale è il traffico di droga, ma in particolare il traffico di oppioidi. Ebbene, i traffici si alimentano grazie a reti transnazionali. Nelle reti sono importanti i nodi. Che cosa sono i nodi? Beh, dei grandi hub di smercio e di commercio. La posizione geografica è importantissima. Per esempio, se vi dico che andremo nel cuore del Mediterraneo, in un piccolo fazzoletto di terra al centro, fra l'altro, di una serie di polemiche e di un omicidio eccellente, avrete sicuramente immaginato che andremo a Malta. Prima però il traffico, state con noi. Nessun luogo è lontano. Malta è un'isola, è un Stato membro dell'Unione Europea, importante crocevia per affaristi, contrabbandieri, imprenditori, spesso spregiudicati. Ecco una fotografia di Malta. Malta è uno Stato insulare dell'Europa meridionale, situata a 80 km dalle coste siciliane, a 284 km dalle coste tunisine e a 333 km dalle coste libiche. Con capitale La Valletta, Malta è il più piccolo degli Stati membri dell'Unione Europea. Ha una popolazione di 436.000 abitanti e le lingue parlate sono il maltese e l'inglese, ma in alcune parti dell'isola si sente anche l'italiano, l'arabo e il dialetto siciliano. Piccola ma piena di tesori geografici e storici, si può godere di spiagge paradisiache, città storiche e siti archeologici di grande fascino, agevolati da un clima caldo ma ventilato. L'economia maltese cresce di anno in anno. Il PIL è aumentato del 5% e ha un tasso di disoccupazione del 3,7%, tra i più bassi in Europa. Però c'è un'altra faccia di Malta più nascosta e più problematica. È la faccia del traffico dei passaporti, di petrolio, del gioco d'azzardo e delle criptovalute. Malta vende passaporti a 1 milione di euro l'uno, creando almeno un migliaio di nuovi residenti che, acquisendo così la cittadinanza maltese, hanno la possibilità di entrare e uscire dall'Europa tranquillamente e con loro anche i loro capitali milionari. Il gioco d'azzardo è una voce importante dell'economia maltese, rappresentando il 12% del PIL. Malta è diventato un grande hub di criptovalute, dando la sede a diverse compagnie di exchange di criptovalute, fra le più importanti al mondo. E poi c'è il traffico di petrolio dalla Libia. L'accusa più grave che viene mossa al governo maltese è quello di non aver messo in campo le misure necessarie per fermare questo fenomeno. Circa il 30-40% di petrolio prodotto in Libia viene perso o è oggetto di traffici illegali, causando un ingente danno all'economia libica. Questa è la fotografia di una Malta a due facce. Il lato oscuro di Malta è stato spesso indagato da Angelo Minguzzi, inviato del Sole 24 Ore, il signor Fiumi di Denaro, se posso presentarti così. Angelo, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Grazie mille. Allora, Angelo Minguzzi si è occupato molto spesso di quelli che sono paradisi fiscali, e però di fronte a Malta, Angelo, abbiamo una serie di fattori incredibilmente confortanti per attività criminali, assetti giuridici piuttosto elastici, per così dire, per usare un eufemismo, una posizione geografica assolutamente strategica e a un certo punto Malta che diventa un'incredibile crocevia. Nella fotografia che abbiamo ascoltato abbiamo citato le criptovalute. Io partirei da quello, perché Malta è stato il primo paese al mondo a dotarsi di una cornice giuridica. E poi cos'è accaduto? Hanno creato sì una cornice giuridica che è stata proprio studiata appositamente per attrarre società che sono attive nel campo della blockchain, delle criptovalute, Bitcoin, Monero, eccetera, eccetera. È successo che da quando, questo è successo l'anno scorso, hanno cominciato a regolamentare perché non si fermeranno qui, Malta ha attratto società, molte società nel campo delle criptovalute. Una delle più grandi società al mondo, una società asiatica, ha aperto una filiale a Malta e Malta si propone come un vero hub delle criptovalute con tutto quello che conosciamo. Ora, le criptovalute sono in parte anche un buco nero dal punto di vista dei rischi di riciclaggio di denaro. Sì. E questo lo sottolineano tutti gli investigatori, no? Anche la Guardia di Finanza in Italia punta l'attenzione sulle criptovalute perché, come dire, nonostante l'esistenza della blockchain che certifica tutti i passaggi e tutte le transazioni, comunque restano un buco nero perché si può fare qualsiasi cosa, si possono riciclare soldi e non solo soldi. Aggiungo una cosa. Sì. Una frase che è stata pronunciata dall'ex ministro delle finanze del Nord Reno-Vestfalia, quindi non sono io che la dico, sì. La dice un personaggio. Stai già mettendo le mani avanti, stai per tirare una bomba, me lo sento. Qualificata. Ha detto questo: Malta è come Panama, solo che è in Europa. Un ascoltatore ci chiede se è vero che con Brexit Malta potrebbe essere avvantaggiata nell'attrarre attività e società finanziarie in fuga dal Regno Unito. È possibile un certo tipo di società, non probabilmente quelle più finanziarie, ma altre società. Malta è un paese anglofono, no? Si parla l'inglese, quindi diciamo le società che sono in Gran Bretagna sono avvantaggiate da questo punto di vista. Sì. Probabilmente non saranno società bancarie o finanziarie, ma di altro tipo, molto più congeniali alla legislazione che c'è a Malta e che favorisce, come abbiamo visto, le società di criptovalute, di gioco online e di altro tipo. Angelo Minguzzi, ottenere un passaporto maltese non è estremamente facile, però concede uno status invidiabile perché il passaporto dell'Unione Europea è uno dei passaporti migliori al mondo. Assolutamente, è difficile magari per noi, non abbiamo i soldi, per le risorse per poterlo comprare. Come dicevi prima, 1 milione di euro ci vuole per comprare un passaporto. Un terzo circa delle persone che hanno ottenuto il passaporto maltese sono russi, per esempio, ma ci sono anche gli arabi, ci sono i cinesi. Con questo passaporto possono viaggiare come noi in tutta l'Europa e in tutti quei paesi che hanno accordi con l'Europa, come fossero cittadini europei. È uno status, ma non soltanto uno status, consente di fare affari con un passaporto dell'Unione Europea. Quindi muoversi liberamente all'interno di paesi magari rispetto ai quali lo stesso cittadino arabo o cinese non avrebbe ottenuto il visto o la cittadinanza. Esatto. Esatto, è un grande problema dell'Unione Europea, perché Malta non è l'unico paese che fa questo, ma questo è un grande rischio perché noi non sappiamo che tipo di capitali queste persone portano in Europa e che tipo di affari fanno. È un grande buco nero perché la due diligence fatta da questi governi, penso anche a Cipro, sì. Come dire, è una due diligence che sta mostrando dei buchi e la stessa Unione Europea, lo stesso Parlamento Europeo ha posto l'accento su questo problema. Ecco, e fra l'altro stai rispondendo in questo modo a un'ascoltatrice che chiedeva: ma l'Unione Europea non può fare nulla rispetto a queste vulnerabilità che stiamo mettendo in luce? Beh, in realtà sì, può sottolineare queste manchevolezze, ma poi in realtà Malta è liberissima, no? Di vendere passaporti e cittadinanza. Sì, sì, ma Malta è liberissima, ma proprio perché non esiste una regolamentazione da questo stringente da questo punto di vista. Ripeto, non è l'unico paese dell'Unione Europea. E negli ultimi anni sono migliaia i cittadini stranieri che hanno ottenuto passaporti europei e che sono liberi di muoversi nell'Unione Europea come fossero reali cittadini dell'Unione Europea. Dal 2014 all'ottobre del 2018, data di pubblicazione del rapporto di Transparency International, l'organizzazione che lavora proprio su questi meccanismi e appunto sulla trasparenza, 2027 cittadini extracomunitari hanno ottenuto il passaporto maltese, preceduti solamente appunto da Cipro, come ricordava bene Angelo Minguzzi, che anche Cipro ha questa abitudine. Allora, fra l'altro, secondo sempre le stime di Transparency, Malta avrebbe raccolto 718 milioni di euro in investimenti diretti tra il 2014 e il 2018, grazie anche a questa pratica. A questo punto io affronterei l'ultima parte con te, Angelo Micuzzi, per ciò che riguarda invece Malta come enorme polo di attrazione per banche e riciclaggio di denaro. Come funziona? Qual è la forza attrattiva di Malta da questo punto di vista? Ma la forza attrattiva di Malta è, a parte la sua regolamentazione, la sua collocazione geografica, è stata di aver attratto capitali, per esempio, da alcune ex repubbliche sovietiche come l'Azerbaigian. C'è un caso che è stato molto dibattuto, è finito anche sulle pagine dei giornali italiani, quello della Pilatus Bank, che è una banca che era stata fondata da un uomo d'affari iraniano che attualmente è in carcere negli Stati Uniti, e attraverso questa banca, sulla quale indagava Daphne Caruana Galizia, sì, sono passati dei finanziamenti, dei soldi russi, ma anche soldi dell'Azerbaigian, che poi sono finiti alla Danske Bank. Attraverso la Danske Bank, quindi una banca danese nella sua filiale estone, vediamo come tutto è collegato, sono, sì, stati poi riciclati intorno al mondo 200 miliardi di euro, una cifra colossale. Una piccola parte è passata dalla Pilatus Bank e attraverso Malta, però Malta è inserita in questo giro di riciclaggio finanziario internazionale, in cui c'è anche l'Italia. Vuol dire, noi italiani, come dire, non ci facciamo mancare nulla, però Malta da questo punto di vista diciamo è competitiva. Grazie mille. Angelo Micuzzi, inviato del Sole 24 Ore, ci ha aiutato a gettare un po' di luce su quelle che sono le tante zone d'ombra di Malta. Vedremo come andranno a finire questi dossier. L'appuntamento, intanto, noi ci fermiamo per il weekend e per lunedì, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.